che non ce l'hanno raccontata giusta su questa guerra. Io penso che non ci dovrebbe essere nessuna guerra. Io penso che sarebbe bello vedere farfalle bianche! Vola, vola, vola! Farfalla bianca vola! Per favore, Lady Brian vi chiede in questo momento, Kama Sutra, alzare le mani e fare il vostro applauso a Mario Più! Il mio angelo. Io ho il mio angelo. Lo chiameremo l'uomo che suonava il disco giallo. Dalla sua valigia fuoriescono dischi gialli e l'angelo si muove. Consal Kama Sutra sta suonando Mario, Mario Pio. Ho visto un angelo. Signori, il mio tre vorrei sentire un urlo per Mario Più. Uno, due, tre! Signori, il mio tre vorrei vedere tutte le mani che si alzano al cielo. Uno, due, tre! Acquisizione e controllo. Out of control. Assenza di controllo. Cosa dici di battere quelle schifose mani? Batti le mani! Batti le mani! Batti le mani! Solamente utopia. Pensavi di fare quello che non...

Sembrava fosse impossibile. Invece, è arrivato Mario Pirù. Speciale martedì 7 dicembre. Torquemada, i Cosor, Kamasutra, Igor S, Christy J, Thomas T, Luca Antolini, Marcio Des, Super Gesta, From Meganize Records, Paolo Piccotto, l'eretico Lady Brian, il santo inquisitore, il principe Maurice. Angelo, il mana continuava con i suoi giochetti sporchi. Continuava con quella bevanda azzurrina verde. Continuavo a pensare a quel sogno in cui mi dicevano: guarda, è internazionale, alzagli le mani, Mario Pio! Angelo! palco. Tanti auguri ai ragazzi del club. Un saluto a Francesca. Sisters. Yeah. Mario, I put you pretty dress on. Mario, I'm not afraid to su questa DJ Every Go. Un applauso Mario Più! Questo signori era un applauso del cazzo, voglio sentire il vero applauso del Kama Sutra per Mario Più! Batti le mani, batti le mani. Non si sentono le mani, signori, batti le mani. Mario, Mario Più, Mario, Mario Più, Mario, Mario Più, Mario, Mario Più, Mario, Mario Più, Mario, Mario Più. Voglio una discoteca libera. Voglio una discoteca piena di colori, piena di musica, di amici. Voglio la mia discoteca. Ci avviciniamo al cambio della console, signori. Cambio console. Signori, vorrei sentire un grandissimo applauso per lo special guest di questa notte. Questa notte in console, signori, abbiamo avuto l'occasione di ascoltare la musica di Mario Piu. Un applauso! Grazie Kama Sutra! È un DJ internazionale. E ci avviciniamo al cambio console. Signori, un grandissimo applauso per Mario Piu! È il primo cambio della console. Quei signori continuavano a raccontarmi sempre la solita storia. Mi sembrava quasi fosse impossibile, eppure loro continuavano a raccontarmi quella solita storia. Mi raccontavano che c'erano 100.000 colori, che c'erano grandi visioni. Mi raccontavano che si alternavano grossi DJ. Mi raccontavano un sacco di cose sulla musica, sulla gente, sulla filosofia. Mi raccontavano di lasciarli andare. Ricordo bene che questa storia mi appariva una sola volta alla settimana, ogni sabato notte, e continuavo a vedere quell'uomo.